chi è avanti? Aspetta, hai tolgo le cuffie. Chi è? Io sono Daniele, tu chi sei? Chi sei? Ciao Cristian, ben sentito, salutori, buona Pasqua. Da dove stai modulando? Capa Rogero. Ascolta, ma qualche rumore strano senti sottofondo? Cosa? Capa Rogero. Va bene, meglio così. Forse ho risolto il problemino che ci avevo, dai. Anda bene Meda, da che zona stai modulando? Te l'ho già chiesto, a casa di Antonio. Già va bene, già va bene. Com'è il mio rapporto segnale lì? Guarda, 1, 2, 3, 4 e 5. Quanto? Va bene, ok. E se accendo le pale dell'elicottero qua, come sta andando la storia? Va bene, spegniamo l'elicottero. Cava, cava. Ok Cristian, dai, ti devo lasciare che adesso salgo a fare una piccola carichetta e ce l'ascoltiamo alle prossime se coincide. Capa Rogero, dai, a più tardi, ciao ciao e buon proseguimento. Hola. Prova Daniele. Guarda un po' Massimiliano, cosa dice adesso? E adesso non c'è più quel flusso. Gli ho staccato due fili dalla scheda dell'eco che andavano a quel trimmer. Sicuramente andava in sofferenza. Sì, sicuramente era proprio così. L'eco adesso come te l'hai regolato? Tutto come era prima Massimiliano. Guarda un po'. Ora, 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, la radio te l'hai collegata di nuovo al pomellino o è libero adesso? No, adesso è libero, diciamo, il trimmer è rimasto lì dentro. Però se già la manetta così e le storie funzionano, lo lascio così per adesso. No, funzioneranno, ma se glielo colleghi almeno non ce l'hai libero, capito? Se ti serve di abbassare leggermente la radio, aumentarla, ce l'hai. Cava, cava. Adesso in questi giorni mi appento. Va bene, meglio così, dai, che era una cazzata, era alla fine. Se te l'ho detto io, cioè era quello lo doveva fare lui direttamente. No, era proprio fastidioso, Daniele, quel fischietto sotto era micidiale. Adesso già a posto, va? Lo so Massimiliano, te l'ho detto, io mi sono sentito in cuffia e l'ho dovuta togliere perché sentivo questo un sibilo che ti penetrava dentro l'orecchio. Sì, ma adesso infatti è perfetto, va? E infatti mi sono ascoltato anche con le cuffie prima ed è zitto, si sente solamente il sottofondo, dai, è baffa. Cappa, prova a tenere la portante muta. A posto adesso. Va bene, e sembra che sia anche più alto il parlascolta adesso, ho la mia impressione. Adesso la radio c'è, adesso stai usando quel Midland, è vero? Sì, non ho toccato niente, no, microfono nero Midland, quello 4190, e basta. Ho fatto un paio di regolazioni alla scheda e basta. Sì, ma la scheda bisogna farla in due, capito? Perché col parlascolta così non ti rendi conto. Invece magari se ti sposti magari con qualcuno che capisce un po' di quella radio, no? Te la regoli bene e poi chiudi, e non tocchi più nulla. Infatti, arrivate più tardi, nei prossimi giorni, Massimiliano, abbiamo un attimo di tempo. Tu che c'hai orecchio, la tariamo. Sì, vabbè, io tanto già sono a casa, non è che sono chissà dove. Mi metto le cuffie, ti ascolto, ci spostiamo magari alle 45, che così non c'è nessuno. E facciamo bene bene, te la regoli bene bene, capito? E così poi è finito di stare toccando e facendo. Cappa di Rogero, va bene. Ok, dai Massimiliano, che adesso risalgo su, che è quasi pronto a mangiare. Ci sentiamo più tardi, dai, se coincide. Io ti mando un messaggio se vuoi entrare dopo, come ritorno a casa. Ehi, poi ti dico anche un trucco per farlo spingere un po' di più quel microfono, là. Capito, c'è da fare un lavoretto e spinge un pochino di più. Va bene, ok. Peccato, si è perso una goccia d'acqua albino, gà. In una goccia d'acqua proprio. Se no lui era un bijou. Comunque, cioè nel senso ti ha trattato bene, sì. Troppo bene l'ha trattato Massimiliano. Va benissimo, di lusso, per quello niente da dire, guarda. Da quel punto di vista sì. È stato gentilissimo, onesto. No, è così lui, là. Ti ripeto, lui è molto economico. Guarda, la verità sì che ha dato anche, non tanto, ma qualcosa in più gli ho data. Perché era troppo poco quello che mi stava chiedendo. Fate un conto. Non sto dicendo che... E perché ci devi perdere un'oretta di strada, andare, un'ora a tornare. Però se lui si fa una casella postale alla fine, lui fa un pacchetto che paghi 10 euro. Infatti, ma almeno vedi, ci pare, ti fai due chiacchiere, ti consegni il pezzo, poi devi consegnare, ti fai il lavoro, vai te lo riprendi, capito? E vedi quello che ti ha fatto, è quello che ti deve fare. È così, ok, va bene Massimiliano, grazie per adesso, dai, ci sentiamo dopo pranzo. Ehi, ciao Daniele, buona carica, dai, ci sentiamo dopo al limite. Ok, a dopo, dai, buon proseguimento e buona carica anche a te, ciao ciao. Ciao. Hola. Chi è? Ciao Giuseppe, ben sentito, tanti auguri, buona Pasqua. Gianni doppio rum a Sassari, Giuseppe, abbiamo parlato 100.000 volte. Basta, sì Giuseppe, prova a parlare, non ti sento più adesso sì, parla. Santiago 3, ma la radio è buona. KK Giuseppe, dai, ti saluto, magari fai ascolto quando entrano più tardi, dai. Al momento ti saluto, dai, se c'è qualcuno all'ascolto avanti. Non c'è nessuno. Ciao Giuseppe, ciao, buonasera. Sì, qui faccio un riposino, sono un po' stanco, dai. Ho problemi alla gamba. Sono molto stanco, mi si sono stancate molto le gambe. Hola. Attigalli. Beh, Gianni che? Mi hai svegliato. Meno male, almeno c'ho qualcuno con cui parlare. Dai, una drumida che mi sono fatto. E tu, e io lo stesso. Sono svegliato quarto d'ora fa, 20 minuti. Gianni, guarda se si sente ancora quel sibilo. Io non lo sentivo manco ieri, lo sentivo basso, ma proprio quasi impercettibile. Ci ho messo mano oggi. E cosa era? Un trimmer che stava rompendo le scatole. Meglio così. Una fesseria. Ero di nuovo tutta aperta. E non hai sfasciato nulla? Zero. Andava bene. Funge questa qua. Gava. Già funge. Come ti sta arrivando con tre fatti? Sì, non lo so perché sono lontano e non c'ho occhiali adesso, però sta arrivando bene. Meglio così, dai. Meglio così. Guarda un po' se l'elicottero sta girando. Ora. No, devi dire cambio. Cambio. Gira. Va bene, parcheggiamo tutto, se no consuma gasolio. Ma quella in macchina la vedi? No, già, se non lo so, perché se la metto in fuoristrada questa poi si sbarra, a fine di prendere i colpi. Adesso vediamo. Ma in fuoristrada c'è la vera una radio, no? C'ho la portatile, c'ho il PMR. brutta, brutta. Con lei non puoi parlare. Già è difficile parlarci. Ah, gli ci metti uno con l'altro quando si esce. Pensa tu. Cosa, Daniele? Non ho capito. Ho detto, già è difficile comunicarci a 10 metri uno con l'altro. Alvido. Troppi alberi, troppi posti chiusi, un casino ogni volta. Ma gare sta facendo? No, gare no. Ce n'è una la prossima settimana, ma non ci vado. Sempre la stessa macchina c'hai? Quella bianca. Ah, che ci siamo trovati a Platamona, quella volta ci è avvicinata la polizia, te lo ricordo. Ah, no, non ce l'ho più quella. Già me lo ricordo, mi faccio l'altro giorno con Lorena, ne stavo parlando. No, quella non ce l'ho più già. Cosa ti hai preso, la Toyota? No, non sono dell'Isis ancora a prendere Toyota. E cosa hai preso? Land Rover, ciò. Ah, già è bella la Land Rover. Se guardi ciò nel profilo di faccia di libro. Cosa? Che ce l'ho nel profilo di faccia di libro. Chiama, chiama. Non è entrato nessuno stasera, oh, mi sa che oggi non entra nessuno a Pasqua, auguri comunque. Ehi, già a proposito, auguri, non mi sembra neanche Pasqua a me oggi. Cosa, Dani? Ho detto che non mi sembra neanche Pasqua oggi. Come mai? Ah, boh, sa che dopo devo andare al lavoro, non lo so, boh. Ma sempre dici? Cappa. Ma adesso stanno pagando? Zero. Niente. Zero. A te al soccorso saldo che ti pagano almeno. Ma lì sono pieni. Lo so, ma hanno anche un bel travaglio, Già lo so, già. E anche da me, saluta. Già lo so, vedi, saluta mia moglie. Ehi, salutamela, adesso non me che non ci vediamo. È una bambina. Cresciuta, quanto c'ha? 6 anni c'ha già. No, non ci credo. Così tanto. Già passiamo con il tempo. E allora, il prossimo anno va a scuola. E vabbè. Anche lì diventerà una signorina. Ino, che è masculo. Masculo è giusto, scusami. Un maschietto, un giovanotto. Giovanotto è ormai. Com'è che si chiama, Dani? Marco. Come il mio. Gava, gava. Anche il mio si chiama Marco. Marco Emanuela. Tutti con la M. Vabbè. Perché secondo me il nome deve adeguarsi al cognome. Non è che tu vuoi buoni William Porcuca, è brutto, capito? Invece guarda, Marco Merlo, Manuela Merlo, va bene. Ed è giusto, se no diventa una cosa cacofonica. Deve essere liscio quando lo dici. Cazzo ti pare, William Porco. E magari esiste pure lei già. Sì che esiste. A voglia. Andale. Aspetta già, dimmi. Dimmi un po' se la modulazione sta diminuendo o aumentando così, guarda, ora. E prova a fare due passaggi, prima un punto e poi l'altro. Guarda, 1, 2, 3, 4 e 5. 6, 7, 8, 9, 10, com'è? A me mi vale la mattessi, per me non aumenta. Comunque il primo passaggio lasciala. Così? Sì, va bene così. Ma secondo me sarà un pedino, ma no, proprio niente. No, perché stavo guardando se quel trim era ancora attivo o l'aveva disattivato, va bene. Allora è comandato solamente da un trimmer. Cavale Rogero. E adesso già va bene, dai. Ma anche ieri la sentivo, forse dipende dalle radio. Con le radio professionali magari te ne accorgi di più. No, già, balla, che mi sono sentito in cuffia e non si poteva alzare con quel fischio, Ma qua ti ripeto, qua non lo prendeva nulla, ma niente. Anche perché questo qua è molto selettivo l'apparecchio. A Claudio lo facevo sordo. A chi? A Claudio. Ma magari perché siete più vicini. Poi man mano che si allontanava il segnale, diciamo, che parlavano gente più lontana, non sentivano nulla. E in effetti è così, perché sono molto lontano, probabilmente non sento nulla. Strano ma vero, tipo effetto saturazione con l'attacco lineare. Se conosco come lontananza lo senti chiave limpido, poi ma se appena più vicino lo senti saturo. Esatto, sì è vero. Sono cose piccolette che magari rompono le scatole, capito? Lo so, ma adesso non lo sento neanch'io in col parlascolta, capito? Quel cavo adesso non so, se quel trimmer per fare questa operazione va più grande magari. Oppure non va bene fare questo tipo di modifica con lo stesso trimmer. Sono tutta dolorica, se riesco manco a muovermi. E come mai già? Il tempo? E ho fatto anche la lastra, mi prende al femore. A tutti e due i femori. Pensavo che avessi la cartilagine consumata, ho fatto la lastra e non c'ho niente. Solo che praticamente mi ha trovato un'artrosi importante alla spina dorsale. E quindi devi fare la cura. Adesso lo dico alla dottoressa quando vado domani. Quest'artrosi praticamente ti provoca i dolori, capito? Perché poi quella è micidiale, c'è anche l'artrosi deformante. Dipende. Conviene curarla per tempo, Migia. Sì, la conosco, l'artrosi deformante, ne ho preso di pazienti con le dita girate, ma è un altro tipo di artrosi quella lì. Ne ho preso con le dita di piedi girate, non so se tu ne hai mai preso, al Palazzo di Vetro, vi ricordo che ne avevo preso una, c'aveva tre dita girate. Io lo so, c'hai preso tutte le maniere, tutti i colori, boia. Uno casino, Sì, a 17 anni ne ho visto l'arcobaleno. Cos'hai visto? L'arcobaleno. Cioè? E tu hai detto che ne vedi tutti i colori, io ho visto l'arcobaleno. Ah! Non l'abbiamo compreso, vabbè. No, stavo pensando ad altro, adesso dopo sono arrivato. Sì, ne ho visto io, ho visto gente a pizzo, ho visto gente impiccata, di tutti di più. Ce la vi. Va bene. Quello è un tipo di servizio che ti fa conoscere tutte le scale della vita, dal più giovane al più vecchio, dal più ricco al più povero, la fine che facciamo da anziani, tutte queste cose qua. Ti fa vivere la vita in poco tempo. E allora, vedi il prima e dopo il durante, e la fine. Tutto. È per quello che io dico, sta attento, e mi fidi, papà si è esagerato. No, non sono esagerato. Se così è così, porca miseria, ne ho visto in tutti i colori io, ho visto anche una persona, un ragazzo impiccato, cazzo, se non l'abbiamo sollevato l'abbiamo tolto il laccio, e l'abbiamo massaggiato per roba di una mezz'oretta, ci siamo dati il cambio e cosa, è ancora caldo, ci aveva il segno proprio, sai come si è impiccato, c'era una di quelle case, la cucina sotto, sopra c'era la camera da letto, ancora più si portava al tetto, e il tetto ne aveva uno più corto, uno più basso e uno più alto, lui è andato su quello più alto, ha preso il cavo dell'antenna e si è piccato, si è lampato a quello più basso. Sì, a me era successo in psichiatria invece, qua al civile, e c'era questo, si è messo sulla finestra, che stava fumando, si è messo là, c'erano le scarpe al collo e si stava impiccando, ma non me ne sono accorto in tempo. Cazzarò. A te ti è mai successo che stavano per accoltellarti, a me sì. No, solo quello che manca già, mamma mia. A me mi ha salvato una collega, perché mi ha detto stop, io mi sono girato e c'era il coltello, perché ci avevano dato questo tipo cirrutico da portare all'ospedale e viveva con questo suo amico famoso di Sibriagoni. Fatto sta che questo qui gli abbiamo portato all'ospedale, gli hanno fatto un flebo di antidolorifico. E praticamente poi ci hanno fatto riportare a casa. Quando l'abbiamo riportato quello là non lo voleva più. No, no, portatevelo via, io non lo voglio più qua. E veramente noi ci hanno detto cazzo di portarlo qua. Poi vi arrangiate voi su queste cose, io lo devo scaricare da dove l'ho preso. e niente da fare, vabbè, io chiamo la polizia, ho preso, stavo facendo 113, cazzo, questo ha preso contro la cucina e me l'ha colpito, dice, ho detto stop, cazzo, mi sono guidato, cazzo, verrai tu quello così, dove? E un'altra volta in via Lumberto l'abbiamo caricato con la pistola dietro, è caduto, questo qua si è spaccato la testa e questo mio collega ha detto stop, come abbiamo bloccato, e lui ha preso e gli ha tolto la pistola da dietro e poi abbiamo chiamato la polizia, questo che era un casanzino. Cesso, ya. Ehi, a volte anche pericoloso, sembra così, ma non sai cosa va incontro. Quello che ha perduto bisogna fare, stare. Noi facevamo anche corsi con psichiatri, eccetera, eccetera. E ci hanno sempre insegnato a riconoscere il tipo di persona, capito? Gava, o se no vai al campo nomadi, mi. Oh, ya. No, al campo nomadi una volta avevano picchiato questa tipa perché si era fatta mettere in galera, quando è uscita fuori l'hanno picchiata perché l'avevano trovata a rubare, no? E non ti devi far scoprire, capito, secondo loro. Cesso, per carità. Oh, ya. E adesso è ancora peggio. Sì, non lo so, no. Prima i campi nomadi vendevano di più, però pure no che abbandimano. E non voleva, il comune li portava l'acqua per lavarsi, per cosa li portava le butti, cazzo, li riempiva le butti di acqua e non li trattava nemmeno con un cicino. Per carità, guarda. Oh, adesso hanno venduto tutto. Là non c'hanno più niente, né luce né niente, a gruppo elettrogeno stanno andando. Ah, sì. E allora, rubinetti, tutto ci hanno venduto. Cesso. Dai fili che gli hanno messo nelle impianti elettrico ci hanno venduto a rame, no? Non fate le certa gente, c'è poco da fare, dice il razzista, ma vedi che non riescono a capire l'importanza e il valore delle cose. Luia, pensano a vendere, a fare, è loro indole già, non li puoi più civilizzare ormai, cosa fai? Oh, così fanno, così, c'è poco da fare. Tu pensa che un'amica ferma al semaforo, si avvicina a questa zingara, gli chiede i soldi, praticamente gli ha detto no, vattene via, non ne ho dei soldi. Questa ha preso, si è girata e l'ha sputata in faccia. Sì già, e che poi diventano, sono anche cattivi, ti si girano, sembra che tutto gli sia dovuto, è una cosa allucinante. Quindi quelli di colore, non dico senegalesi, ma nigeriani sono bastardi, si vede dalla faccia. Adesso sono quelli che hanno la faccia da cattivo proprio, ce l'hanno scritta in fronte. Sì, ma io una volta, questo qua si è ubriacato, no? Allora non c'era ancora 118. E si è messo questo zingaro, allora c'era la farmacia in via Sorso. Ci hanno chiamato di notte 3 o 4 volte, ci hanno svegliato per 4 volte, cazzo, per questo qua. Alla fine mi sono incazzato, sono andato, l'ha giocato una sussa. L'ha giocato di già, adesso ti devi allontanare da qua, perché noi ci stanno rompendo le balle tutta la notte per te, gli ho detto. Ma io ho bevuto, Giudito, avviati dai nonni, avviati, io vattene in campagna, vattene di viaggio, ma non ci stare qua. Perché la gente ti vede in terra, pensa che stai male e chiamano. Cesso, va bene. Quella si chiama terapia adulto. Alle volte devi fare così, per forza, se no guai. Un'altra volta questo qua, sulla 131, però con un'amica si è messa a gridare, attento, cazzo, freno di colpo, cazzo, c'era uno zingaro in mezzo alla strada, proprio sdraiato nella corsia. Mi fermo, cazzo, ho detto, questo qui l'hanno cazzeggato, secondo me, ho messo le 4 frecce, scendo dalla macchina, guardo ed era cotto, cazzo, ha giubilato, non era giù, tirato di golfo, forte, dietro a guardare, forte, c'erano dei ragazzi che stavano andando per aiutarlo, ho detto, no, state dietro a guardare tutti quanti, sono uscito fuori da lì dietro. L'ho messo dietro, fuori dietro il guardare, ho chiamato 113 e mi hanno detto che ho fatto bene a Tullio, mi hanno ringraziato e così, ho detto guarda che stiamo mandando un'ambulanza a prenderlo. E poi non so cosa hanno fatto, perché io a quei ragazzi ho detto state attenti che non vado di nuovo nella strada, e niente, e l'ho lasciato lì. E quelle donne che c'erano insieme a lui, gli altri zingari, ha bevuto whisky, ha bevuto whisky. Che suga. Oh, io, per carità. Ma ha rischiato di essere cazzigato, al buio si è messo, a ripunti lì. E meno male che c'era un punto che si vedeva un po', ma ha rischiato, perché sì, ho visto una sagoma, ma quella americana si è messa a gridare, e mi sono fermato di colpo, ma per dirti, cazzo, fa rischiare anche gli altri. Così poi passi anche a casini. Oh, ioia. Per carità, è già in taglia. Era famosa 500, ancora ce l'hai? No, l'ho venduta già, mi sono liberato. L'hai venduta finita? Oppure ho visto che la stavo ristrutturando. L'avevo messa a posto e poi l'ho data. Che peccato. Non faceva più già, sarà diventato un lavoro quella macchina. Ogni poco tempo devi starla a mettere le mani sopra a verniciarla. Perché? Perché era molto fragile. E allora, ti avevo cambiato il muso e il cofano, ma c'è ancora roba da cambiare, bisogna cambiargli tutto il pezzo anteriore, dai. Dove metti la batteria, tutto quel, il bagagliaio, diciamo, dai, quella parte anteriore. Solitamente le 500 si infradiciavano. Scusa un attimino. Ehi, ha già. KK, allora lì c'era mio nipote che stava facendo una cosa. Hai capito? Di solito si frazingavano proprio sotto la guarnizione del vetro di dietro. Quello bene o male no, perché gli scuri dell'acqua erano aperti, capito? Quello succede quando vai a portare alcuni carrozzieri, prendono, succano e non lasciano gli scuri dell'acqua liberi. Non so, la mia si è infradiciata lì, io avevo 5,95 giannini, ruote abbassate, con l'assetto, tutto camminava bene, 130 mi faceva nella salita di 130-135, la salita di Marini, oggi sono passato una macchina, ma mai dato. E là c'era 126 sotto. E praticamente mi faceva il 9 al litro, però, il problema era quello. Già lo so, secondo come la elabori già consuma, quanto è una macchina normale? Allora, quella era una macchina che correva, quello che me l'ha venduta non me è tu. Un giorno sono andato da un elettrauto, che adesso non so se esiste ancora, dove c'è Birisi Racing, lì sotto c'era un elettrauto. Sono andato a questo elettrauto e ho visto questa fotografia grande, cazzo, guardo la macchina e vedo la targa della macchina mia. Ma questa è la macchina mia? Sì, questa qui è quella che correva, la preparavo io elettricamente. È quella che faceva le gare, c'aveva la capotina a scacchi, ci hanno cambiato la capotina e l'hanno messa nera, ce l'aveva tutta a scacchi bianchi e neri, mi ha detto, e poi le strisce da una parte come si usava prima. E tu non le sapevi neanche? No, e poi la scritta marrone davanti, con una scritta gialla, un parasole, là, diciamo, nel vetro di davanti. C'è su, ya. E tu stavi già con questo giocato? Me l'avevano venuta a seconda mano, era la prima macchina che ho avuto quando ho preso la patente, ma camminava in cosa male questa macchina. Solo che consumava, e gli andava bene il rifornitore appresso. Oh, Iuia, peccato, ya. C'aveva la testa d'alluminio, cazzo, di quelle cromate, poi praticamente si è bruciata la guarnizione della testata, non si poteva spianare la testata, voleva cambiata nuova, ho preso l'ho versata. E va tu bene. Tanto quando cominci a aggiustare, a fare, poi non ne vale la candela. Insomma, ti costava nuova all'epoca. Allora mi pare che costasse 600.000 lire, da 500. Sa du. Io l'avevo pagata a meno, l'avevo pagata a metà, mi pare. Però era nuova, mi dentro era tutta fatta bene, c'aveva il contagiri, rotondo, c'aveva. La strumentazione non bella dentro. Contagiri, contachilometri, cose dello strumento di luglio a parte, tutte queste cose qua ci avevo. Chiara, bella, bella. Ah, oggi è carina, però poi era sempre qua ferma, ho detto no, io fuori te l'ho venduta. È venuta bene, sì. Discretamente, non ne posso lamentare. Un amatore? Ah, un ragazzo, sì, un amatore. Mi è piaciuta e se l'ha portata via, poi cosa ne abbiamo fatto non lo so. E c'è molta gente che si destreggia, le butta giù il peso, lo ricostruisce, capito? E riesce a farsela bella. Bisogna avere pazienza, mi Fabrizio, pochi di gatto, è molto bravo a fare queste cose. Appento, Pigherede. Ci vuole appento, bisogna avere anche la mano per fare certe cose. Quando c'hai gli attrezzi, la mano giusta, va bene. Gava, gava. E va bene. Fabrizio mi ha preso diverse che erano da lampate, ricostruite dal fondo della carrozzeria, tutte quante completamente. Beato lui. Mano, pazienza, io già ne ho, ma sino a un certo limite, poi la perdo. Ma tu sei verniciare? Io l'avevo riverniciata da zero, era venuta un bombo la macchina. Ah. Cosa c'è, garage grande? Non grande, ma già tanto di fare queste cose già c'è. Ah, già va bene allora. Andava, andava. E oggi soli eravate? No, ero su da mamma e siamo scesi, fai verso le 3 e poi sono fatto la pennichella. Vabbè, io ero da mio figlio, c'era un po' di gente, già mi sono divertito. Gava. Va bene, va bene. Lui a tra un po' si avvicina, allora inchisi. Eia, adesso entrano tutti. Sì, faccio chiudendo io e entrando gli altri. Perché là, tu devi andare via adesso da lì. Io verso le 6 e mezza. 7:20 ci devo uscire. Sempre come volontario. Eia. E anche tua moglie c'è? Ehi, lei ha la croce blu. Ah, siete due diversi. Uno è prima e l'altro è dopo. Cazzarola. Beh, vabbè, là. Già ci sono i nonni a tenere il bambino, così. E allora mamma abita al piano di sopra. Beh, infatti. Adesso vi. Andate a mamma e coso. E vabbè, là. Quindi la passione non vi è mai mancata, dai. Io sono già 10 anni che lo sto facendo già. Io ne ho fatto 17 anni al CISO, poi sono stato alla Croce Blu e all'Albi, se non ti dico quasi. Ai tempi di Pierpaolo? Sì, c'era anche Pierpaolo. Gava. Poi dipende, ciao. Ma stai sentendo Pierpaolo Pintus o altro Pierpaolo? No, lui. Sì. Ma la Croce Blu io sono stato praticamente alla vecchia Croce Blu, non quella di adesso, quella che c'era in via Don Piga. Ehi, ai tempi che furono già. Già quello che sto dicendo io. Adesso c'era il figlio. Io praticamente sono stato quando c'erano i 2.38. Ho portato il 2.38, il cappuccino della Peugeot, poi abbiamo avuto diverse ambulanze, abbiamo avuto il Volkswagen che camminava un bel 2008 di cilindrata. E ne abbiamo avuto diverse di ambulanze, dai. Ma il 2.38 era mitico. Sì, già ho visto qualche foto, già le ho viste. Che c'era poi quella a cubo stile americano. Ehi, quella che c'aveva la palla a mano che poi si metteva praticamente sopra, c'erano dei carri da protosocco, senso non ci sono più, che ci avevano praticamente delle U da tutte e quattro le parti e si appoggiava la barella tipo barella, cosa ti posso dire? di quelle barelle senza ruote, la ci appoggiava lì e ci portava dentro. Una specie di spinale era, dai, con le manecce, più larga. Esatto, ci dicevano, sono arrivati quelli del Far West. Sì, nel Far West era, davvero, E io gliela riconosciuto, per carità. Sa che il cappuccino camminava un bel, ce l'aveva distrutto Mastro Vitto, cazzo, è andato a accompagnare la ragazza di nascosto e lì, visto dove c'è la chiesa di San Vincenzo, lì nella curva di Scidù, stava piovendo e ha preso un albero in pieno. C'è sua. Allucinante, ecco la curva micidiale. L'ha praticamente distrutta. Lui l'ha presa di nascosto, doveva accompagnare la ragazza. E ce l'ha distrutta, e vabbè, pazienza. Siamo stati fermi per un po' di tempo, poi praticamente il CISO ha avuto un'ambulanza da Roma, però loro non avevano mai fatto servizio ambulanza, le abbiamo fatto un po' di lezioni e in più hanno messo a disposizione la loro ambulanza, tanto loro non lo sapevano né gestirla né niente. E noi praticamente quando c'erano le uscite uscivamo per dire uno del CISO e due per dire di cose, due della Croce Blu, capito? Ti facevamo vedere come si faceva, eccetera, eccetera. Poi piano piano hanno imparato e se ne sono andati e si hanno aperto la sede. Poi una volta che io me ne sono andato alla Croce Blu sono andato lì. Gara. Già sono sempre bene a raccontare queste cose, la tua esperienza. Oia. Sì, beh, io poi c'ero nel sangue, io quando sento l'ambulanza che con le sirene mi vengono i brividi, perché lo sento, capito? È una cosa che è come la religione, o ci credi o non ci credi. Così è, io le riconosco anche dal suono. Cosa? Io le riconosco dal suono adesso. Anche io conosco tutte le ambulanze, polizia, vigili del fuoco, tutte quante le conosco. Però adesso vabbè ce ne sono troppe nuove, ho perso il conto. Adesso è nata una nuova. Ogni tanto viene una, Croce Azzurra, Croce Sarda, Croce qua, Croce là, Tutti tanti grossi sono diventati. E allora? Ce ne sono un bel, poi hanno capito invece che si fanno i soldi, facendo dei trasporti e quindi tutti quanti si stanno dando da fare per coso. Io già avevo sempre l'intenzione di fare una cosa del genere, di aprire una sede, però non più di volontariato ma tipo lavoro. Come può essere questa cosa sardo? È così. Fai trasporti, ti fai pagare i trasporti, magari le urgenze no, ma i trasporti sì. Ecco. Avanti il brecco. Ciao Daniele, ciao Gianni, buonasera. Ciao Massimiliano, ben ascoltato, buonasera. Ciao Gruni, anche a voi. Stavo ascoltando di Lampeggianti, Blu, KK. Ehi. Ne ho avuto di esperienze queste cose, per carità. Ne ho fatto di bei servizi. Poi io facevo uscire dal travaglio e andavo subito in Chibi. Sempre a disposizione. Quindi è una cosa bella quella. È bella, ma poi alla fine diciamo vorresti fare tante cose, trascuri la famiglia magari per fare il servizio, devi fare qualcosa e non la puoi fare, è bello perché chi lo sente è bello farlo, non c'è nessun problema. A me mi ha fatto pensare la volta che abbiamo avuto l'incidente via Mendola, via l'Italia, lì nell'incrocio, avevamo bitonale e sirena a fischio, lì. Tu già lo sai cosa vuol dire avere la sirena a fischio, ti devi tappare la lecce quando passi. E siamo arrivati all'incrocio, io ero dietro, avevamo un ictus cerebrale, e ero dietro, a un certo punto mi stava mancando, mi si sono girati gli occhi, ho cominciato a massaggiare e gli ho detto Tani cammina perché se no la perdiamo. È arrivata all'incrocio, ha rallentato il mio collega, sempre con le sirene, le macchine si sono fermate all'incrocio per farci passare, questo testicolo è uscito da dietro la fila delle macchine, ci prende in pieno, ci fa sbattere al semaforo e ci fa capottare. Ecco, dopo 5 minuti Massimiliano mi telefona a mia figlia che era piccolina, mi ha detto papà ma stai tornando a casa lì, mi ha dato a pensare, ho detto no, balla, io ho i figli da mandare avanti, da crescere, cosa, ho finito, basta, non ne faccio più. Vabbè, già, è un incidente, può succedere a tutti, no? Ma incidentale dura, Massimiliano, quando ti vedi l'ambulanza che si gira, tutta la roba che ti ringaginando, barella, la paziente addosso, qua, un casino, ma non male, la paziente si è ripresa da su golpe. E tutto perché cosa? Per colpa della figlia che la dottoressa, siamo arrivati lì e ci hanno avvisato i vigili del fuoco, praticamente allora non c'era 118, anzi no, c'era, eravamo 118, ci avevano avvisato che i vigili del fuoco stavano andando, che questa signora era in contatto con i vigili del fuoco e poi di colpa hanno perso il contatto, sicuramente si è sentita male, ma gli aveva detto già l'indirizzo, quindi noi siamo andati lì, abbiamo chiesto dove c'era abitavo l'anziana e invece era già arrivata la figlia, aveva aperto la porta perché sicuramente hanno sentito grida o roba del genere, hanno avvisato la figlia. Beh, quando siamo arrivati dentro io l'ho guardata e gli ho detto alla figlia la dobbiamo portare via, no, voi non toccate niente, io sono una dottoressa, parlo con condizione di causa. E gli ho detto scusi, ma se ne è accorta che vi sta avendo un ictus, che c'ha tutti gli occhi rossi sotto? E praticamente questo ha detto chiamo mio marito che è dottore all'ospedale, adesso vediamo cosa ci dice. Ho detto oh, signora, lei mi firma il foglio perché sta rifiutando il ricovero. Chiama il marito e l'ha immediatamente portato. E noi siamo andati, ci è mancata proprio lì dove c'è come si chiama, l'ex polizia, diciamo lì, no? E ci è mancata lì, Carina ha cominciato a camminare, ho detto cammina se no la perdiamo. Questo qua mi guarda prima, mi guarda fisso, poi gli si girano gli occhi, il cazzo ha detto, cazzo comincia a massaggiarla, a farla. E lui camminando io massaggiando, immaginati com'ero. Ci vuole un po' di fegato anche. Arrivati in via l'Italia, a casa attaccato la sirena fisica, ha rallentato, attaccato la sirena fisica, si sono fermate tutte le macchine, trovate un carabiniere, questo qua, un ex carabiniere, ma il carabiniere sono intervenuto, a noi non ce ne frega nulla, se un ex collega, adesso ripigliamo la battente subito. Cazzo sordo era. Ha detto che aveva la radio accesa, che non sentiva. Sì, ma non sentiva il fischio, ce ne vuole. Doppio, c'avevo sia nella fischio che la bittonale c'aveva. Per dirti. E me l'ho vista brutta lì, tutte le ambulanze di Sassari sono venute, cazzo, a toglierci fuori. A me mi ha tolto proprio Giampaolo Pinto, se me lo ricordo bene. Io ero svenuto, ho preso un colpo al lavandino con la gamba, infatti c'avevo multifratture, insomma. Invece il mio collega mi ha chiamato, Gianni, io non rispondevo perché ero svenuto, si è messo a gridare, Gianni! Che tra cui ho sentito così mi sono risvegliato, capito? E il colpo che ho preso, sono svenuto, non sono belle le cose da raccontare, è meglio raccontarle, ma io ero sotto shock, quando sono venuti i miei colleghi del CISO, grazie, non mi niente, come ti un macco. Va bene, e quindi Massimiliano? E quindi qua siamo, stiamo mettendo un po' a posto adesso. Mi sono fatto un mobile, mi sono comprato un mobile tipo quello che c'era già avevo più lume, mi ho messo tutto dentro e così non si vede nulla. È fatto bene, è scomparsa. Cappa, così ci ho messo tutto dentro, l'alimentatore giù e poi con il ripiano mi ho sistemato per radio. Buenos Aires, sei dietro aperto e Massimiliano? No, dietro l'ho lasciato chiuso. Ah, lascialo aperto per respirare, io l'ho lasciato aperto dietro. O li fai dei buchi per traspirare, per non adesso, ma d'estate scaldano un bel apparito. Sì, ma c'ho il condizionatore io qua sotto. E allora già va bene, già raffreddano allora. Kappa. Niente, adesso c'ho da fare fuori, c'ho da farmi fuori qualcosa qua, non mi importa nulla. C'ho un bel linearetto, è una radio modificata da dare, là. Che radio? Un 87. Bello. Io ce l'ho modificata, l'ho tenuta per la macchina più che altro, ma non la uso mai qua, perché ogni tanto la faccio girare, ma non la uso mai perché disturbano a casa, casino. In macchina non li pongo più, che non devo fare di buco. Ma questa diciamo che disturba quando c'ha l'eco, invece quando la usi normale, che c'ha le vettine, no? Puoi staccarle l'eco, il beep, tutto, là. Quando la usi normale non disturba, capito? È normale, è forte lo stesso, però risulta, la radio risulta più forte, si sente che è più piena. Sì, vabbè, è più piena, però le stacchi le modifiche, la stai usando senza modifiche, quindi diciamo che penetra di meno, va, capito? Perché questa no, che sto usando non è modificata, eppure adesso è senza modifiche. Sì, vabbè, tu in campagna problemi non hai, non sei in condominio, va, la simile diverso. Sì, vabbè, io ho 4 antenne TV attaccate alla Mantova, eppure io non disturbo. Sì, ma infatti, se sono fatte bene le cose già non dovrebbero dare disturbo di niente. Io attacco tutto qua, anche lineare cose, non disturbo niente, non mi hanno mai detto nulla. E vuol dire che quando l'impianto è fatto bene già non disturbi, capito? KK. Va bene, dai, Daniele. E quindi hai tolto quel rumore? Sì, li ho tolto direttamente da sotto il trimmer, gli ho staccato quei due cavi. E sembra che resta muto. Sì, no, il rumore non c'è adesso, io ho voglia. Cava, e poi ho fatto la prova con Gianni a muovere il trimmer della LC che c'ha originale, diciamo, quello deve essere disattivato. Perché non cambia, vero? No, non cambia, Similia. Cambia solo quel trimmer che abbiamo provato stamattina. Te l'ho detto, ma è un raggio così comunque abbastanza forte. Se la usi con pochissimi watt, tanto inutile. E queste radio modificate tanto funzionano così, Melania. Quando tu le chiudi con tutti i watt, la radio diventa più forte e i picchi di modulazione rimangono uguali a quando tu la metti a manetta. 3 watt sto usando adesso. 3 watt tondi tondi. Chiudilo del tutto il trimmer delle watt. Guarda, adesso è a 1 watt, tondo tondo. Guarda come è aumentato un po' la radio, Gianni. Eia. Hai visto come è aumentato la radio con 1 watt? Sì. Sono così con le radio, si sanno. Da quando lo usava Gigi me lo ricordo io, lo diceva sempre. Allora, da 3 watt a 1 watt è cambiato totalmente la radio, Daniele. Il segnale è rimasto quello, Cava. E qua c'ho anche il trimmer del watt, adesso non so se questo è già al minimo, mi sa che questo è già al minimo, sì. Il trimmer interno, questo è già per 1 watt, mi sa che di più non scende. Sicuramente è fatto apposta quello così, capito? Ma è buono, così è buona la radio, Daniele, tanto con i watt al massimo si 9,5, invece con 1 watt fai da 7 a picchi di 9,5. Ehi, già va bene, l'importante della radio è che giri tutto come deve girare lì, Massimiliano, capito? E che giustamente quando le metti l'eco devi cambiare un po' il modo di parlare, capito? Non puoi fare un QSO parlandoci normale con l'eco, perché ti si accavalla tutto, devi un po' allungarlo. Quello sì, Massimiliano, KK, quello sì. Va bene. Io. Mamma mia, come sto. Guarda, arriva Civilia. Adesso abbiamo acceso l'elicottero. È buono così, va bene. Va bene? Già lo sento anch'io, che è diverso adesso. Non so se vuoi regolarlo, se ce l'hai aperta. Sì, è aperta qua. Questa va bene. Dimmi lo che mi assento, 5 secondi. KK. E beh, Daniele, come stavo dicendo? E qua è aperta lì, Massimilia. Allora, se tu ce l'hai affrontare così, l'ultimo trimelino della scheda, quello in coda, lo devi appena aumentare, in senso orario. Aspetta, qua ne ho uno sulla, l'ultimo trimmer sulla destra, c'ho tre trimmer. Guarda, adesso si può dire che a ore 16 è tutto chiuso. Ecco, quello lì adesso prova a lasciarlo così. Adesso diminuisci quello centrale. Il centrale ne ho, allora, il centrale a fianco. Aspetta, sempre in senso orario o antiorario? Per chiuderlo devi fare senso antiorario, no? Come che stai proprio chiudendo, verso la tua sinistra. Ora. Guarda cosa sta succedendo, Massimiliano. Fai così, ora. Ora. Prova a lasciarlo così, adesso vai nel primo, vai nel primo. Ecco, ci sono. Prova a aumentarlo un pelo. Ora. Ancora un altro pelo. Ora. Troppo, diminuiscilo un po'. Aspetta, 1, 2, 3. Guarda un po'. Prova a fare ora o cambio, che così sento l'eco come gira. Cambio. Allora bisogna allungarla leggermente la coda, quello lì. Ritorna nell'ultimo che c'hai in coda e aumentalo un po'. L'ultimo, il terzo o il primo in punta? Verso il bip. Verso il bip. Aumento. Ora. Ancora un po'. Cambio. Per me la puoi lasciare così, cosa dici già? Va bene, va bene. Vai se c'è la bella lunga. C'è la coda del girino adesso. È perché lui ci parla così normale, capito? Se l'allunga un po' gira bene adesso, ecco. Vagava. Basta dire cambio e vedi come gira. Che dico? Massimiliano, mentre il terzo trimmer, non il centrale, l'ultimo diciamo, sulla sinistra, quello cos'è? Per fare la ripetizione, giusto? Quello dovrebbe allungare la coda dell'eco. L'ultimo? Eia. Ma lo lascio così. Ehi, lascialo così. Gava, gava. Cambio. Vedi. Così gira. Positivo, dai, perché ci devi parlare così quando c'è l'eco. Gava, gava. Va bene, cambio. Direzione. L'importante è non si accavalli quando parli, capito? Daniele, non si accavalla se tu ci parli, ti ripeto, quando c'hai l'eco devi cambiare modo di parlare, cioè devi allungare le parole, capito? Le devi dare quel senso di cavo, cioè allungato così. Se ci parli così per fare questione, l'eco non va bene perché gira tutto al contrario, capito? Se io mi faccio una modulata così con l'eco, guarda, te lo faccio sentire, guarda. A me Daniele, vedi, guarda come gira tutto strano quando c'è l'eco, vedi un po'. Ehi, Assimia, si conferma. Positivo, dai, tutto rosico, Daniele, senti un po', cambio. Vedi, un'altra cosa, invece quando ci parli normale tutto si accavalla, guarda, tutto strano. Cava, cava. Sì. E così, vabbè, devi lasciargli il tempo di farlo girare anche. No, devi rallentare tu il modo di parlare e allungarti le parole, capito? Allora lui non si accavalla, però se devi fare questo classico così normale, secondo me ti conviene toglierlo, ecco. Sì. Sì, ma infatti non lo uso, vedi, sto usando quello normale adesso. E va bene, perché allora il primo è girato ore 15, poi il centrale è girato ore 9 mi sembra, e l'altro a mezzogiorno. E quelle sono le, tutte le, diciamo, lì c'è la regolazione dell'eco, la regolazione della velocità della parola e la coda dell'eco, capito? Cava, cava, positivo, va bene. Ma se guardate, se riuscite a eliminare quel sibilo, cavolo, mi stava assillando male. Se poi arriviamo a mezzanotte, tutti a nanna. Ciao Dino, buonasera e ben entrato. Compagnia mia di Daniele, di Gianni. Buona, buona. Oggi siamo tutti in versione pappale con l'eco. Com'è questo Massimiliano? Ho cambiato microfono, eh? Va bene, buona ti. Allora lascio questo è il CTS. È chiaro attino la modulazione, l'altra non era, non mi piaceva molto. Ciao. L'altra era quella con il Mildan originale, diciamo. Qua è chiara tutto. Non so se stai parlando a voce bassa tu, se c'è il volume basso, io me lo sento un po' basso. No, vabbè, non alzare il volume rispetto a quello che stavi ascoltando a loro, valuti un pochino. No, io sto parlando normalmente. Va bene Tino, buonasera. Va bene. Se sembri tipo Gianni, lo più room. Va bene. Cava. Forse vi siete sovramodulati, Mi ascolti con questo Tino, con questo apparecchio? Lo sto usando con un watt e mezzo. Bene, già, bene. Io sono con il 48, Ed è un... Poi 48 più la colonnina esterna attaccata, si sente chiaro. Fa una bella ricezione il 48, pare così. E piglia un po' di colpi, il problema è quello. Lo è. Riprendete un secondo che mi assento. Venga, per la radio, ciao, adesso Daniele. Mi pare che Gigi aveva trovato un metodo, diciamo, dove lo portava, avevano trovato un metodo per togliergli proprio gli splatter, tutta questa roba qua. Avevano fatto dei filamenti particolari, non lo so, schermati, e non prendeva colpi. Te lo ricordi Massimiliano? Gianni, ma non c'è metodo per il 48. Non c'è metodo. Diciamo che gli avevano trovato un sistema di mettergli un filtro anti-splatter, ma i colpi del 48 di biglia. Perché io l'ho provato, quello lì che c'ha lui, ha detto che non prendeva colpi, io l'ho provato qui a casa mia, i colpi di biglia, argomenti. È proprio il tipo della radio che è così, capito? Perché lo aprono molto di ricezione, quindi prende tutti i rumori, tutto biglia. Vabbè, però Massimiliano, che ci dà? Giulio, oppure Walter, non lo so. Comunque, ne approfitto, dai, tanti auguri e buona Pasqua a tutti. Qualcosa per non farli prendere gli splatter, perché come apparecchio è bellissimo, nel senso che è forte come apparecchio, è un apparecchio che dura, eccetera. Però ha questo problema degli splatter, il battimento zero di go e poi anche in macchina, quando parlava Gio Maria lo si ricompriva più nuda. Così è, sì Tino, tanti auguri anche a te, ti ho sentito sotto a Gianni, ma io già lo sai, già quanti ne ho avuto di 48, ma non ne voglio vedere più mancuno, ma no, tanto per gli stessi soldi ci sono radio molto molto molto superiori. Escono bene quasi come il 48, dico quasi perché il 48 ancora oggi secondo me è la radio migliore in assoluto che si presta per queste modifiche, per me. Specialmente il modello vecchio è il migliore. Sì, modello vecchio, old, quello diciamo col telaio dorato, quello è il migliore in assoluto, quello c'ha PLL 7121. Quello è, non ce n'è per nessuno, ma ancora oggi guarda quanti ce ne sono, i 48 in giro, quindi vanno bene, vanno benissimo, però per casa no, già per casa no, prendi tanti di quei colpi che se c'è qualcuno vicino no, o stai nello stesso canale o se no la spegni. quello è vero, infatti io sotto. Stanno modulando, ma sotto sotto. Nulla, è fatto abbattimento zero più. Kappa kappa, avanti e chi? Va bene, ma me l'eco, esci che scopo fuori un po' tutto, avevo l'altro acceso. L'eco mi piace, però utilizzarlo magari a battaglia. A me la verità queste camere eco così ce ne sono belline, però preferisco sempre più l'eco Colt, ecco. Mi piace di più come tipo di eco. A me non mi piace neanche quell'eco, quello Major, quello non mi piace nemmeno. E a me per il Major preferisco l'eco che c'ha il Magnum. E poi è tipo una ripetizione, un reverbero, quello c'ha il Magnum, capito? No, sempre l'eco Colt secondo me è sempre più bello, per me. Ehi, Daniel, avanti. Gava. No, neanche a me piace quello Major, come cavolo si chiama lui, che l'ho sentito in un video, ma fa pietà. Ne stanno installando sia Colt che col Major. Major è una chitarra elettrica, però è tutto strano. Eppure ci sono degli apparecchi che escono già direttamente con quel tipo di scheda, capito, proprio si chiama Echo Major, la radio anche si chiama Echo Major, e c'hanno quel tipo di scheda lì, mamma mia, che feo. Gava, questa teoria della GGD, mi sembra, quella che dice che è la maggiormente quella più usata. E sono le più usate, sì, capito. Avanti, Tino. Ma ascolta, quella cosa che ci avevi appoggiata sopra quella pianta, non ci avevi ancora già mangiata, l'ho già mangiata a te. No, sono fatto l'agnello. Ah, ecco. Vabbè, mi è capitato così sotto mano oggi, e quindi ho messo a farlo girare. E vabbè, no, noi oggi facciamo a base di pesce. Già, va bene, va bene. E ogni tanto, dai. Accendiamo un fuoco, c'è freddo per campagna. Sì, sempre garre, non fa, capito. Tra un po' non vi basso più, ma con la Ianna, i contributi. Anche io lì c'è un problema, perché poi tutte le cose buone ci fanno male a noi, quindi bisogna mangiare un po' di ambascio ogni tanto. Voi non ci crederete, io che arrosto preferisco a tutto quanto la pancetta, è troppo buona, fatta arrosto, bella croccante. Anche il pollo schifo ti va. Anche il pollo è buono, il pollo c'ha tutto l'altro sapore fatto arrosto, già lo so, però la pancetta per me, pancetta e capocollo mi piacerebbe. E a me diciamo che non ho preferenze su queste cose, là. Diciamo che pancetta è buona, il capocollo è buono, il salsiccione idem, la roba fatta al fuoco diciamo che è quasi tutta buona la carne, là. Mi ho un po' diciamo preferisco sì pancetta e capocollo per il cavallo, a me il cavallo è il piace da tanto, forse anche la gimmagna del gruppo. No, a me invece guarda, sinceramente a parlare, a me piace tutto, anche il pesce soprattutto piace. Però c'è una cosa, che se la carne la mangio oggi per dire, la posso mangiare anche domani, dopodomani, mentre invece il pesce lo mangio bene oggi, domani già un po' non lo digerisco, capito? Anche io sono così, io diciamo che il pesce mi fa ogni tanto, anche io lo mangio il pesce, però seppur mi metti a scegliere tra il pesce e la carne preferisco sempre più la carne. Io. Così allora, è così perché non mi stufa la carne, capito? La puoi mangiare più spesso. Il pesce mi piace tantissimo, qualsiasi tipo di pesce, poi vabbè, parliamo di crostacei e di molluschi che ne vado matto. Però c'è sempre da dire che se tu non l'hai oggi e poi di domani hai nuovamente la stessa cosa che mi hai dato oggi di pesce, di che allora la lascio da parte. E anche io sono così. Anche a me, io no. La carne la posso mangiare tutti i giorni, il pesce no. Ho capito anche a te, ce ne avevo troppo da tutti e due. Anche io mi piace la pastiglia. pesce non è, a parte che avevo un pesce di pesce che ho fatto male in corso, Leccia, Turchia, ne ho dato il tirato di Turchia, Leccia, non ci vedo che ho maloccato. Però amici, io lo stesso mi ha provato, è capitato l'anno scorso che ne ha fatto 400, ci abbiamo fatto una bella mangiata così, senza così, al gusto diciamo, la notte ci abbiamo fatto la pasta asciutta, e domani non volevo neanche sentire di mangiare ricci, da quanto ne ha mangiato? Perché quando la cosa è troppo eccessiva, è normale. Ma io dico che è proprio paura, sì. Una presa, una boccetta da 200 grammi, me la metto tutta e però non mettato per farlo uscire la bocca. Beh, anche io, una volta che compro, se li faccio, devo abbondare, perché sennò, cosa stai mangiando? Pasta bollita. Oh, c'è capitato, sono andato a Murai a mangiare a ripunti, che molte volte facciamo scendo al lavoro e andando lì a mangiare, ci offrono il piatto della casa, un'altra volta ho detto sì, però Michele, perché l'ultima volta che ho mangiato era pasta bollita, non sembrava il caso, anche perché su di noi credo che siano come tutti quelli degli altri, quindi una volta che stiamo pagando dobbiamo mangiare bene. Beh, mi sembra utile, ordinabili dai voni, quindi devi anche a mangiare in coincidenza, non male. No, io preferisco farmela a casa, me la condisco bene. Quando la mangi fuori non ti racconti gli idei, ti viene tra appena appena. Anche la pizza è ricima, mi piace molto. Oh ragazzuoli, riprendo io che sto chiudendo, dai. No. Ce l'ascoltiamo domani, se coincide. E Danieri, dai. Ciao Daniele, anche io lascio acceso, però devo scendere un attimino giù, mi devo abbeverare come le pecore. Va bene, ciao Daniele, ciao, si ascolta, tante cose bene, buon fine serata. Ciao padre Rogero, dai, a domani, che lavoro mi aspetta. Ciao Daniele, dai, buon turno. Grazie, grazie, buon proseguimento, a domani, ciao ciao. Ciao, ciao. Ma tu ci sei? Sì, che ci sono. A me, ti ha fatto l'antenna? Aspetta un attimo, ti sto sentendo male, però sei un po' saturo. Davvero? Almeno qua non stai arrivando bene. E così, anche io. E adesso? Forse perché ho toccato il microfono. Parlare più lontano. No, ho toccato il microfono, aspetta. Vai qua. Sì, tutto pasticciato. Ciao già. Antucci, ben sentito e auguri. Che a te altrettanti. Bene, adesso va meglio? Ti sento sempre saturo, chiedo conferma a Gianni, dai. Va a tiro. Raga, non so da dirvi. Sono 5 watt, guarda un po'. Ho compresso e non saturo, ho compresso, altro io lo sento. Scappa anche da questa parte. A proposito, datemi il controllo anche voi, che sto uscendo con un microfono normale, dovrei avere la voce abbastanza tranquilla. La voce tranquilla, prova, segniamo. 1, 2, 3, prova microfono. Sta arrivando a 9, radio 5. Già va bene. Ti invece tu come mi senti? Come mi ausculti? Va bene, guarda un attimino, com'è ora? E dal giorno alla notte sei cambiato, va benissimo. A me come mi senti, Antonio Riserva, Gambio? Sei sempre quell'eco che il giorno che te lo trovo te lo schiaccio. Tutti con l'eco, la mia prerogativa c'è con l'eco. Infatti ho detto che te lo schiaccio. Ti può schiacciare, che ce l'ho interno, nella parecchia. Ah, che roba stai utilizzando? Allora, così ti piace di più. Aspetta, vi siete sovramodulati. Ti ho chiesto, che roba stai utilizzando? Io ho un Inuit 294. Copiato. Eia. Scusa, che zona stai modulando, ti? Io. Tappa. Quindi per oggi. Sweet milk. Aspetta, c'è mio figlio che ti ha coperto. Cos'hai detto? L'ho detto io. Sì. Latte dolce, sweet milk. Periferia, dai. Lo sai che è un po' come come il coso a Bretagna, adesso hanno aperto quel ristorante, da adesso, cioè da un po' di tempo, che si chiama Blackstone, che altro non vuol dire che Bretagna. E lo stesso latte dolce tradotto in inglese, sweet milk. Allora, e tu dove sei invece? Viale Italia. Aspetta, Viale Italia. Ah, ho capito, va bene, dai. Riprende già. Rientrato, eh? Capo. Va bene, va bene. E altri un paio di passaggi, mi stanno arrivando, sta arrivando gente. Io di nuovo a mangiare a bere, eh? Vedo il rompimento. Vabbè, a pranzo eravamo da soli, quindi non è che... Ma non ti credere, me, stanotte faccio la brava e anche domani. No, io stanotte andiamo da... Perché sennò poi domani non è guglia. No, tanto se no oggi vai l'entrata da Leone, domani sono mazzoni. Piano piano, va bene, avanti doppio. Sì, ha cambiato apparecchio, là. Questo qui è normale, normale. Cappa già, cos'è questo? Plus? Questo è il Cobra. Ah, il serpente è quello. Ma ho già, ma tu hai quello digitale, vero? Cappa, sì, quello digitale, quello che c'ha la parte di davanti che si può illuminare in diversi modi, verde, azzurra, viola. Sì, sì, guarda, ero quasi impressionato di comprarlo, però all'inizio, forse sentendo te, non mi piaceva la modulazione. E adesso come va? Non è che sia, già va bene, ma voglio dire, me lo immaginavo più performante, diciamo, dai. Bisogna attaccarsi un microfono amplificato qua e magari va bene. Niente a che vedere, per dire, come quella che chiama Massimiliano, capito? Vabbè, ma sono due mondi diversi però, anche se sono due serpenti, chi che musicheggia, chi sono. Quello, capito, io l'avevo comprato perché a primo impatto effettivamente mi piaceva un sacco, come poi invece guardando meglio mi è passata la fantasia, così a primo impatto mi sembrava più bellino e poi mi è passata la voglia di prenderlo. Vi siete tutti e due accazzigati, capito? Avete fatto un passaggio lungo e sovramodulato. Avete fatto un passaggio lungo e vi siete sovramodulati uno con l'altro. Ehi, fruscia, avanti. Ma se non viene avanti, è inutile fischiare. Ma vedi che è il pulcino pio. Avanti, avanti. Ciao, bene. Massino di segnale, ma la radio è buona, Capitana, mi sentite adesso? Un attimino, chi è che ha detto mi sentite adesso? Avanti. Gappa, sono pronto. Sono da parecchio senza tempo. Bene ragazzi, io vi saluto, dai, ci sentiamo dopo se coincide. Eia, ciao Bombo, ciao Massimiliano, te l'hanno via, ciao ciao. Ci si riascolta. Gappa, ciao dopo. Anche tu però, Rosè, mettiti un po' di benza. Ma no, poi già ne ho capito, ma non eri tu. Non ero io, ero io. Infatti ho detto che non riesci a passarla giù mai e poi non hai più preso. E quello eri tu. Ero io. Benito. Apprendati, porca miseria, mettiti l'antenna come deve essere messa. Va bene. Ma infatti era la prima che mi chiamavate in riserva. No, infatti, no, ha chiamato Gianni. Gianni è ubriaco, per forza. Sono che sono di picco io. Tutti come me fossero gli ubriachi. O come me, no. Purtroppo c'è lui. Ma proprio nelle occasioni, non è che dico che non bevo nulla, una birra me la bevo, però non è che sia di chi si sente a bocca in pulla. Lo so. sentirebbe una cartellatina. Quando non puoi bere, ai miei tempi andavamo in pizzeria, che si asciugava, sette impuri di birra, da giovane si può fare, adesso non più. Con la birra ti viene la malattia del vitello. Quando è piano, sacchetta smetti di bere. No, ti viene la malattia del vitello perché cresce la pancia e si riduce. Stamattina sei avvisato già. Oi, invecchiando stai. Sì, no, perché non ti ho più sentito, quindi ho detto, mi sembra la voce di Antonio Grobbi, chissà. Va bene, dai, buonasera e tanti auguri. Da un'ora sono in ruota. Comunque auguri a tutti, sono io stato maleducato che non mi sono presentato. Mi hai sentito Tino e tutti gli altri che sono in ruota, Antonio il Grotte. Come Antonio ha una voce bassa come la tua e avevo confuso la tua con quella di Antonio. No, fatta che io devo fare sopravvalutazione con Antonio Rigetta, perché è qua vicino a casa. E tu quando sei entrato, forse è entrata gente, quando sei entrato hai chiamato a lui, anziché io ho chiamato Antonio e invece è entrato Antonio Rode. Perché abbiamo la fortuna tutti e due di chiamarci Antone. Antoni, Antoni! Come si dice, che bastano tre Antoni per battezzare un asino. Ma sentite, Auzieri lo dicevano, che il problema non era trovare l'asino, era trovare il terzo Antonio, perché asini vieni già un bel. Ti ha messo l'antenna anche di nuovo. In verità l'antenna c'è sempre stata, non l'ho mai tolta. È che devo trovare di nuovo la stanza dove mettere l'apparato, cioè l'apparato, gli apparati. Però fra l'altro a questo qua adesso mi è rimasto un MB+4, così si chiamava, sì. Devo un attimino rifare i contatti perché lo utilizzavo per il Kenwood quello. E dovrebbe andare bene per questa radio qua, dovrebbe andare abbastanza bene. E per queste radio amatoriali niente? E piano piano sto rimettendo sulla stazione, capito? Già lo sai meglio di me, quando c'hai i bambini giro per casa e sconci tutto, per poi intanto la malattia non passa, è solo rimandata. Vabbè, meglio godersi la crescita della bambina, è così bella quella bambina, fai una bambolina. Perché l'idraulico era un bell'uomo. Cosa? Perché l'idraulico era un bell'uomo. Ah, magari anche la madre. Oh, ma perché mi dici sempre l'idraulico e al postino, ho capito? Dove l'idraulico e il postino? Soltanto che di solito il postino bussa due volte, quindi quando c'erano i due figli, l'idraulico viene una volta solo. Elettricista non lo lasci. Non mi ha mai capito un tubo l'idraulico. È vero anche quello. È che non si sono rotte le prese in questo ultimamente, quindi è per quello. Antonio, come mai ti è venuta l'idea di rientrare? Da cosa ti è scaturita questa scintilla? A dirti la verità, perché mi sei mancato da un po' di tempo, quindi è questo. Grazie. Guarda, mi sciolgo, quando esci tu mi sciolgo. Mi stanno facendo anche le lacrime. A dire la verità, lo sai, a parte gli scherzi, siccome vedevo spesso Paoletto al Tanit, allora esci che vedo se c'è di nuovo, se c'è ancora gente in giro, capito? Un giorno mi è capitato un apparecchio per le mani, l'ho acceso e ho sentito un po' di gente, quindi ho detto vabbè, riproviamoci, dai. Vabbè, dai. E sta entrando anche gente nuova, dai, già, si sta riformando la combriccola la sera, Pino ha spolverato di nuovo gli apparecchi, insomma qualcuno sta rientrando, va, è entrato Benito. Ma no, ho visto che il gruppo è folto e nutrito. Avanti Benito, facci sentire la tua voce, facci sognare. Fatti sentire la voce ragazzi, Gaddo, Benito avanti. Ti stai operando, la modulazione è buona comunque. Adesso sistemati l'antenna, te l'ho detto, costruisciti una di quelle antenne con la canna da pesca che fungono bene e spendi pochi lire. Bene, ieri avevi il segnale più buono, adesso sei Santiago 3. No. Ma ho capito. Chi è avanti? Non so, ma lo dai un controllo. Meglio, d'accordo. Mombolo, tu sei Santiago 9. Che ma la radio è buona, non so qualche difetto. Adesso da un po' che non mi attento. Ma per me sta leggermente andando in saturazione, un po' anche un po' trappando. Poi non so cosa tutto c'è sotto. Vabbè, adesso dovrebbe essere a posto. Bravo, così vabbè. Andiamo, dai, continuiamo. va bene, lascia così che migliori. Ah, poi già, la passione è ritornata anche perché è venuto Daniele per prendersi un'antenna, quella con cui sta trasmettendo adesso, che schicchia forte, hai visto? Sì, ah, tu gliel'hai dato. Sì, sì, va bene, sono delle belle antenne a tu, io non l'ho mai detto che sono... L'unica cosa che hanno è che non hanno materiale robusto, ecco, quello che c'è, però come antenna va bene. Oh, quello gliel'ho detto fin dall'inizio, fra l'altro quella lì è un'antenna che mi aveva dato, mi aveva venduto Massimiliano Bulldozer, ed era un'antenna, è ottima, però sì, a livello di resistenza diciamo che non ti fa gli stessi anni che ti può fare una Mantova 1, sicuramente io ce l'ho da una vita, eppure non ho avuto, oppure una, cosa c'è, una Sirio 2008 o 2016, cioè se non ricordo, quelle sono antenne che le puoi dimenticare sul tetto e dopo 5-6 anni le ritrovi come le lasciate. Sì, io ho la Mantova 5 e ce l'ho, la bellezza di 15 anni, una volta solo l'ho scesa per ripulirla e poi l'ho ripiazzata. Se non mi ricordo, forse la 5 è anche la mia, dimmi qual è la differenza, quella con 4 radiali, no con 4, aspetta, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 radiali sono. Ma quella è la turbo, se non sbaglio, la Mantova 5 ha 5 radiali e la Mantova 1 ha 4 radiali. Bravo, bravo, la turbo, c'ho la turbo io, sì. Io la 1 forse ce l'ho, boh, 25 anni. Credimi che ha resistito a parecchio vento, eh. Io pensavo che prima o poi ne cadesse, invece lì, ti ripeto, cioè, ci sarà almeno 10 anni, almeno. Già, l'ho dovuta scendere una volta con Luca perché la salsedine, l'ho capito io, schicchia un po', no? E quindi la parte del PL era un po' così, che l'abbiamo ripristinata. E la stessa cosa ho fatto io, ho cambiato quella piastra dove attacca il piede, che era tutta rugginosa. L'abbiamo cambiata con Fabrizio, poi gli abbiamo rifatto la massa, vabbè, non ci aveva nulla, però le abbiamo messo un filo più grosso per avere più resistenza se tu attacchi qualche lineare, roba del genere. E abbiamo cambiato il filo della massa e niente, una lucidatina con lana d'acciaio e CRC di tutta l'antenna e ripiattata. Ma cioè, l'unica cosa è che mi sono caduti due radiali, malgrado gli abbia messo quella lenza per grunghi per non farla cadere perché si calano le cornacce e me l'hanno buttati giù, vabbè, quello lì quando c'è bel tempo basta scenderla, prendere le misure e comprare da bricco e rifarlo. Sì, vabbè, anche le metti in alluminio va bene uguale. Sì, no, l'unica cosa però bisogna avere l'accortezza fra uno stadio, fra un pezzo, uno spezzone e l'altro, di mettere il vulcanizzante più lo scotch, come si chiama? Quello da elettricista, adesso non mi sovviene il termine. E dopodiché comunque i radiali ne scendono proprio perché le cornacchie si calano e quando vanno a rispiccare il volo gli danno, tendono a crepparlo, capito? E si spezza proprio dove gli ho fatto passare il bullone passante, lì, dove è più debole. Ci vorrebbe anche un pochettino un filo di vasellina, se ci metti un filo di vasellina dopo diventa nera l'antenna perché lo smog gli si attacca, però basta un po' di benzina e ritorna lucida che sembra d'oro. È vero, io la prima l'ho fatto così, allora me l'aveva consigliata Freccia, Giovanni Freccia, di fare una cosa del genere. E dopo anni che l'avevo smontata dalla veloce per portarla qua, gli ho dato una lucidata, come stai dicendo tu, la benzina è tornata nuova. Ed è durata, grazie a Dio, è ancora su, diciamo, quindi non è che... Ma infatti queste antenne, ti ripeto, per lo spessore che hanno queste, vanno benissimo, nel senso sono durevoli nel tempo. L'unica cosa bisogna stare attenti quando gli si fa manutenzione, di mettersi una mascherina quando gli dai, se gli dovessi dare lana d'acciaio o comunque carta abrasiva e fine, perché l'alluminio è neurotossico e non è molto carino da respirarsi. Vabbè, siamo uomini duri. Mi è girato la faccia per non respirare. Allora, facciamo la manutenzione delle antenne, ti pensi che qualcuno deve metterci la mascherina, ovvio. Ci vorrebbe, ragione, per carità, ci vorrebbe, però quando fai questi interventi qua non ci pensi due volte, quindi le fai, non vedi l'ora di ripiazzarla per finire subito il lavoro. Una cosa, ma tu hai fatto qualche intervento per caso al Residence Platamona da poco? No. Sai dov'è? Sì. Sì, il Residence Platamona solo, ma non ne ha fatto interventi. di movimento terra? Ho negativo, perché tu come trabacco fai movimento terra. Ah, ok. Io parlavo antenne. Ah, no. Tra l'altro molto probabilmente dovrebbe entrare anche un'altra persona che non fa movimento a terra, però è camionista e vuole riprendere in mano la situazione. Vediamo di farlo rientrare, si chiama Antonello, però lui si chiamava Antonello, non mi ricordo che cosa, o Freccia Blu o... Non lo so, non credo di averlo... Vabbè, magari ci stavano sul 5, qualche giorno già lo conosco anche, ma... Al momento non mi viene in mente, bisogna chiedere a Gigino. Gigino, Gigi già lo conosce. Beh, se non lo conosce lui. Gigi è la memoria storica. E come mai non si è sentito Claudio? Perché Claudio è pensionato, no? E quindi adesso sta dormendo. Ha finito di mangiare tardi in campagna, quindi sto facendo ancora la pinichella. Poi lo porta il cane a fare la pipì. No, è il cane che porta lui. E quello stavo dicendo. Bene, un attimino di quel Rick, se rimango un attimino in ascolto che finisco di sistemare la cosa. Riprendete. Vabbè, siamo qua, dai. Va bene. Antonio, questo da la benedizione ce ne va. Addirittura. Non ce l'hai fatta a mangiare a me. Antonio, dammi un controllo nella tua zona, come ti sta arrivando? Grava. Va bene, dai. Adesso lo stacco questo qui che è già scaldato e attacchiamo la mia chicca pipetta. Via da gara. E la tua chicca che è? Quella nera? Sì. Ho capito, dai. Sai che stavo cercando uno di quelli, ma giusto per sfizio. Anche perché giù in cantina nel bunker ne ha 3 o 4 di quelli. E io già me ne prendo uno, ma ti ho preso. Poi no, tanto sono tutti da revisionare. E quanto? La gallina canta, buona. Guarda, io ti ripeto, la mia idea è sempre un'altra. Spendere anche 200 euro per avere una radio un pochino, insomma, nuova, che prendere una cosa sempre a seconda mano e avere una radio vecchia, perché poi ti danno sempre quei problemi lì. Lo so, però, sai, finché me lo garantisce un rivenditore, come tu sai, è un conto, un privato lascia il tempo che trova. Eccomi qua! Qua. Questa è la mia cacchetta capellita. Guarda già, secondo me, vabbè, gusti e colori non si discutono, però ti abbassi un pochino il micio, oppure parli più rilassato. Aspetta, metto gli occhiali. Anche tu come me, Jacopo. Anch'io ci ho dato forte nei dolci, infatti poi vabbè è venuto l'amico, mio compare, è venuto Totano 2 qua a trovarmi. Vabbè, ci sta. Dai Gianni, prova a vedere. Allora mi chiede una chicca in coro, invece va bene. Forse così è migliore. È morto, dice, ma 500. Era tutto pieno di verdurino, sì, io me lo ricordo. Tu vai con qui, sì. Sì, era le scale. Quello non ha il reprimimetro, però. Qua se le scale tu ce l'ha, sono sicuro. Però c'è anche un altro tipo che fa la vita, sono uguali identici e ce l'aveva già Paolo Silvestri, la buona vita. Ah, no, io sto dicendo quello cromato. Ce n'è un tipo che è tutto cromato ed è col e scarico. È praticamente uguale identico a questo qua, però non ha il frequentimetro. L'unica cosa che non c'è è il frequentimetro. Molto bello, lo stesso, è molto, ti dà proprio al frequentimetro. Io di questi ne ho avuto 5. Esatto. Ne ho venduto anche una marca, era marca, se l'ha messo in vetrina che è l'unico che funzionava come si deve. Era nuovo, mai toccata. Questo qui me l'aveva dato un collezionista su internet, avevo trovato, che aveva una collezione di apparati comprati e messi in vetrina. E ci aveva tutti i tipi di apparati che a me piaceva, non solo che ci volevano tutti i soldi. e riprendeva non nemmeno da bloccare, il capito, riprendeva a mezzo suo e si stava liberando perché doveva fare spazio perché era diventato radioamatore, non metteva apparecchi radioamatoriali. E quindi mi ha detto, se ti interessa, l'abbiamo fatto le fotografie di tutti gli apparati che aveva, ma uno più nuovo dell'altro. E ne avevo preso quello lì e toccai 5024, proprio nuovo, mai usato. E se li ha presi tutti e due, guarda, sono venuti a casa, li ha visti, questa e questa, io tu li dico contro lui, che non sai come ti va a dire. Ma in effetti no, anche questo qua va molto bene, va molto bene, c'ho tanti anni e va bene. Beh, aspetta che sto collegando una cosa, aspetta. Ma insomma, siamo andati in campagna a pittare adesso. Aspetta, che provo a vedere. Hola. Non innesca questo, vero? Come sto uscendo in radio? Aspetta un attimino tu. Guarda se come sto uscendo in radio, sta innescando? No, negativo. C'hai il checco. No, perché ho attaccato una colonnina esterna e sono il parlascolto mi dava fastidio al microfono. Invece adesso sembra di no. No, non dà fastidio, dai. Qui non dà fastidio, non si sente. Aspetta, faccio sentire l'altro microfono e valuti. Aspetta, guarda questo invece com'è? Prova a passare lungo, sì. Guarda, sei migliore dell'altro, oppure no? 1, 2, 3, prova. Ma è più forte, più affaticato a narrare. Vero? Allora lascio questo. Vabbè, sono tutti più vicino, magari Gianni è più accessibile come riferimento. Così va bene Gianni. Cappa, così sì. Questa è bella cantata. E poi dipende anche con cosa mi stai ascoltando, capito? No, l'altro era un altro microfono, stesso dinamico, però differente, questo è il suo originale. Va bene. A chi interessa c'ho un MBB-5 nuovo di scatola mai usato, lo comprate e non mi ci sta nella stazione. Se interessa qualcuno lo sto dando. Vabbè, dipende quanto lo hai però. Dipende quanto ci mettiamo d'accordo. Regalano lo è nuovo, che invece non mai usato. Sì, apprezzatelo. Aspetta, ma scusa, sto contrattando io, si mette lui in mezzo. Tu hai il mio. Gianni, con chi stavi contrattando tu? Continuo la verità. Io chi lancia di più? Vediamo un po', chi la facciamo al rilancio. Ok, 25. Questo è bocciato a dubbio. Vai a tu. Ma tu mi hai giudicato. Più uno. 31? Più uno. Non so per il tempo, io ce l'ho. No, nuovo, ancora di scatola, non sto dicendo un palo, se no abbiamo detto, c'è lo scontrino dentro di quanto costa. Sto arrivando già. Ma io vedi per sempre che ti fai la capita. Ma vedi, che vince se lo prende? C'è soffetto, non fai parlare. Va bene, ma solo perché ho un amico Antonio. Lei mi conosci? Andalo bene. No, va bene. Ma io ne ho preso, va bene, 2 più 5 e 1 più 4. Ma uno l'avrei regalato a un amico, solo che adesso se lo sta comprando, peggio per lui. Oh yeah, no. Io sì, ho mangiato un bel piatto di pasta asciutta, ragù, buona. Ma ne ho approfittato perché volevo mangiare un pezzo di carne, quindi. E poi, cazzo, ho mangiato 2 kg di monzette con il mio già, per carità, senza contare luce e quant'altro, va. Io ti passo di mare, ti passo di terra, c'è pizza, poi ravioli. Poi gamberoni, porcetto e dolce. particolari che poi vai e fai la visita come devo fare io dopo domani, che devo fare la visita al diabetologo, vedi, lo già ti dico. Prenditi un purgante, guarda, e risolvi il problema. Addirittura, così tanto pesante, ormai non ci credo. Infatti, non è che... Non ho io vestito di peso buoni buoni. Io sono come la radio. Oh, 27,85. No, 105. Vabbè, ma tu sei alto, già. Siamo stati una moto grossa. E vabbè, ma io uscito sempre su quel presuri, da 95 a 105, più di scena, più di sala, è sempre stata così la mia vita. Claro, una volta che ho fatto una dieta sono sceso 50 kg e non mi pulisce più nessuno. Una volta a città mercato, mi ricordo troppo una piccola bambina piccola, mi ha detto ciao piccolina, quanto sei carina, questo mi guarda da male. A un certo punto mi guarda, già tu sì, poi a cosa ti è successo, ma la così. Ma guarda, è capitato anche ad un amico mio, che un amico di Sentino, che lo conosco da ragazzo proprio, no, era sempre bello massiccio, pesava intorno a 110 così. Caspita, un anno vado a lavorare a Bagaglino, cazzo te lo vedo, ma Memo, boh, pesava 60 kg, e ti manda, ma malato sì, ma cosa ti sta succedendo? Ma non cazzo malato, sono diretta, la dieta, e non ti mangi un pochino veloce, di intendere il buco, guarda, proprio dal giorno alla notte ha cambiato, Ma mi ha detto, mi hanno detto tutti che sembra un po' malato, che forse perché erano andati a vedermi sempre per lo faccioccone. E gli amici mi dicevano, no, già eri meglio prima, scusa se te lo dico, però eri più bello prima, così sembri malato, te la faccia tirata, non mi piace. Guarda, effettivamente sì, io sono del parere, dagli 80 ai 90 sì, vai bene, poi dai 90 in poi sì, già iniziare a essere un pochino sovrappeso, perlomeno io parlo di me. Grazie, amore. Telefonami. Ah, se sei andato al balcone, amare, c'è un video di serva, proprio. Telefonami, a tu, telefonami, che sento la tua mancanza. Manda dei messaggini su motozappa. Benito, purtroppo deve fare passaggi corti, perché finché un amico mio non gli fa l'antenna, Benito non può stare così a... a modulare così pian piano, hai capito quello bene? Perché io devo fare, insomma, l'amico di uno e l'amico dell'altro, quindi, però effettivamente, bene, io ti dico la verità, a me me l'ha fatta, senza fare nomi, Luca Flipper, ci ho speso 40 euro e non serviva un cazzo, non per fare brutta pubblicità, però effettivamente ho tirato le somme. Dopodiché l'ho regalato a un amico, non ti dico cosa è successo in quarantena. Boh. Non lo senti? No, caspita. Va bene. Infatti se l'ha fatta Giulio esce benissimo, se l'ha fatta Franco esce molto bene. È strano, Loro se l'hanno fatta però seguendo le leggi di internet, cioè praticamente se andate su internet, se l'hanno guardato il filmato come dovevano fare, se l'hanno costruita e vanno tutti e due molto bene a te. Facciamo riparare Benito che stava parlando, l'avete sopravvolato, vieni. Allora, da premettere, ascolta il mio discorso. detto, vabbè, non mi interessa quanto mi possa venire a costare, visto e considerato che ce l'avevano altri, andava bene, cioè, fammi uno anche a me, ok? Quindi sono andato a comprare la canna a pesca, sono andato a comprare un tubo di rinforzo, sono andato a comprare un tubetto di polietilene spasso per riempire il tubo di rinforzo e la canna a pesca, in maniera tale che, visto e considerato che qua i venti sono del poco notevoli, siamo riusciti a comprare anche delle, come si chiamano, prese a staffa, non so se le conosci, da 40 per poter ancorare la, il rinforzo della canna da pesca con un tubo in maniera tale che rimaneva anche più stabile, vabbè, ora la favola, solo il materiale ci ho messo 40 euro, ok? Quindi non è che stavo risparmiando, stavo facendo una cosa un pochino stabile, duratura del tempo, per far sì che scendendo nella Mantova, dovevo fare gli stessi anni della Mantova, quella lì. L'ho provata al testa di tetto, non dico che l'ho fatta quanto la Mantova, quindi tieni conto che dal tetto fai l'ho alzata 2 metri, non di più, mentre invece la Mantova è alta un pochino di più, fai 4 metri, sono 2 metri di prevalenza praticamente la Mantova. Da Claudio arrivavo a Santiago 7, con la Mantova 9,20, 9,15, quello che è, quindi c'è la... e poi il segnale molto molto più basso, cioè tu minimo mi arrivavi a Santiago 6,7, al contrario di adesso che sta arrivando a 9,10, fatti due giri di conti e datti una risposta. Ma probabilmente anche perché la Mantova è molto più lunga, come antenna, oltre il palo c'è anche l'antenna che è più lunga, e se ti metti solo l'antenna... Ho capito. Vabbè, ripeti benissimo, dai, dopo continuiamo, ti ho detto che c'hai il telefono messo a squillare. E allora quindi mi ti conviene andare al GPC quando arrivano te la prendi, perché l'hanno ordinata, doveva arrivare, ma al GPC sono lui, per carità, l'hanno ordinato un linea rete 747, metto la prossima settimana, dopo 2 settimane, dopo un mese, passa un mese e mezzo, alla fine l'aggiudizione tutti di colore, detto, ma stiamo fanno qui il culo qualche cosa, sono venute 50 volte. E mi ha detto, perché io non posso ordinare solo il tuo ordinare, quando ordino l'altra cosa, ti pago un cazzo, te lo pago io il coso per arrivare, gli ho detto, no, io quando ordino il resto, ma prima mi ha detto che me lo ordinava, arrivava una settimana, qui continui ogni settimana, mi dice con la prossima settimana, ti dà prepondente, no? Non è male la pena, bisogna ordinare da fuori 3 giorni ti arriva. Io tutto, mangimi, tutto su internet, lo stesso mangime che prendo per le carte di qua costa 17 euro, l'ho guarda su internet, stessa marca, stesso mangime, stessa qualità, 9,90 euro. Sì, conviene così. Se ce l'ha ok, preferisco pagare un po' di più a averlo subito, però se non ce l'ha, guarda, è vibrato su Torino, fa carità, fa carità. Tutte quelle cose che gli ho ordinato io non me le ha mai fatto arrivare. A chi tocca? Oggi non si sente un profeta, un profeta così. Oggi è Pasqua, sono tutti in giostra. Io me ne sono uscito dalla giostra, me ne sono tornato a casa perché non stavo bene. Che ha pagato? No, io ho questi dolori alle gambe, che non riesco manco a muovermi, i femori mi pigliano. Devo essere tutti i grandi, gli sforzi che ho fatto nella vita lavorativa, adesso li sto pagando. Sono entrato, Okay, non è che per caso invece hai qualche rosmetto vatte metterò in più che ti stressa l'infezione? A me dice così. Ehi, ne ho uno piccolino che io usavo nella macchina, quello piccolo piccolo, quello piccolissimo, basta, non ne ho altri più. Ah, ho capito, quello della Fayette sono in base. Ehi, è taggio la Fayette, non mi ricordo, è taggio mi pareci. C'è quello lì che io usavo nella macchina per controllare le stazionali, tutto lì. Invece c'ho una Turbo 2001, a chi interessa, lo stilo, e poi c'ho anche tutto l'attacco di sotto. Ho capito, no. Comunque deve essere Antonio, non è che lo prende Antonio. Cioè, c'è problema, tanto io già sono servito. Ma scherzando stavo veramente. Cosa? Ho detto per il microfono, stavo scherzando veramente. No, no, solo quelli lui, non c'è problema. Te lo do, io lo tanto non ne faccio nulla io. Dimmi anche. No, sai, ci prendiamo un caffè e la moglie ti ripropone la casa. No, no, no, anche poi ti spiego. Oh, scusate, io devo uscire fuori un attimo e devo fare cosa con mio figlio, dai. Ci sentiamo più tardi se coincide. Ehi, ciao Tino, dai, grazie per il questo, ci sentiamo dopo. Avanti, a chi spetta? Antonio Grotti, ci sei ancora? Grottino. ciao Benito. Se non avete sentito, ho salutato, Ciao a tutti. Ciao Tino, ti abbiamo risposto. Ciao, buonasera. Avanti, chi c'è che è rimasto? Sono solo. Non c'è più nessuno. C'è sempre qualcuno. Buona Pasqua. Buona Pasqua a te. Cosa stai facendo? Non esci di buco. È come sempre. Io ci sono sempre, anche quando non parlo, perché faccio tante cose nel frattempo, quindi poi oggi un po' di meno è la verità, perché continua ad esserci questo tempo, mamma mia, dimmi come peggiora pure. Perché non entri quando ascolti? Adesso siamo in tanti, sta arrivando gente nuova, si sta riempendo la frequenza, sta entrando gente che c'era prima che non entrava più. Bello, là. Adesso oramai puoi mollare la diamantura e venire qua. Tanto non viene più di niente in chi. Guarda, forse tu non sai, ma da quel dì saranno quanto? Un anno e mezzo, forse due anni che non parlo con qualche radioamatore, perlomeno sulle frequenze amatoriali. Faccio ascolto anche io ovviamente, ma poco, eppure sono, penso di essere almeno uno di quelli che la radio ce l'ha sempre accesa, cioè la macchina ce l'ha per tutti, sono sempre accese, ma oramai tutti gli apparati sono solo, cioè sono anche analogici, però una gran parte del traffico la faccio in digitale oramai. Parlo con muro, come si dice una volta, ma almeno ti permette di stare in radio, dai. E vabbè, tu ti sei aggiornato con gli apparecchi adesso. Ma io c'ho sempre gli stessi e niente, ogni tanto li faccio tirare, il mio gusto è quello, sentire che vanno sempre le mie macchinette. Ebbene, così, io non riesco neanche a farli girare perché così ho un po', proprio l'altra settimana ho invertito le carte, diciamo così, ci ho messo in linea quello iniziale, diciamo 2000, che era in un angolino, poverino, e adesso è diventato il numero 2. E l'altro che è nuovo lo sto facendo fuori, appena ho 5 minuti di tempo lo devo sbaraccare perché sono troppi e non, cosa me ne voglio oramai, non hanno senso. Vabbè, certo. E tu già come va? Come stai? Ma non sto bene, non sto molto bene, è un tasto che è una domanda di questo parcerato. Ciò praticamente ieri ho fatto la lastra perché ho questi dolori al femore che praticamente non mi permettono di mobilizzare bene. E ho dei dolori fortissimi la notte, cosa? Ho fatto la lastra, non è detto che i Leos non c'hanno nulla, io pensavo che ci fosse la cartilagine riconsumata, invece le ossa sono perfette, non c'hanno nulla, però c'è la spina dorsale che ha un'artrosi importante, ma detto, e quello lì dà tutto dall'infarto. E poi vabbè, il piede non si deve avere. Il piede c'era un gonfio, mi si è fatto viola, insomma, sto passando la pelle dell'inferno questo figlio. Già si è costata con la bottiglia, ma sta annaccando questo affare, cos'è brutto, cos'è brutto. Beh, per la schiena non c'è il solo, non ti preoccupare, ho passato una settimana spalmandomi come un coso, un po' da crema lì nel fondo schiena, sta andando molto, sono tantissima gente, cioè, per me è preso sul fondo schiena dove spunta la coda, dei dolori micidiali, non ho capito perché. Due settimane fermo. E ma io ho fatto lezioni di botta nei muscoli, ho passato pomate, ho messo quelle bende che dice che fanno passare il dolore, non me ne vado nulla. Le uniche bende che sono buone sai quali sono? Quelle che emanano il calore e che ti danno un sollievo e non senti il dolore forte, capito? Quelli ti fanno passare un po' il dolore. E poi insieme alle iniezioni stava guarendo, stava quasi passandomelo già illuso che mi era passato tutto, cazzo di nuovo adesso da Capugli me ne sono dovuto andare dove ero invitato perché c'avevo questi dolori che non potevo stare, poi ho fatto tutta la notte che non sono stato bene, non mi giravo da una parte all'altra, sempre con questo dolore mi percuote nel bacino, poi l'omero e tutto il coso, il femore. E tu sei anche giovane, tra l'altro. Quindi è così. Lo so, ti capisco, purtroppo anche man mano che si cresce l'età si è soggetti a tante più cose. Poi questo tempo non ti aiuta di certo, perché finisce anche quello che non hai. Infatti è il tempo brutto secondo me, perché come stavo facendo quel tempo non c'avevo più nulla, dopo ho cominciato di nuovo lui e infatti non ce la faccio manco andare al lavoro, sarò costretto a mollare tutto perché non ce la faccio più, così non riesco a appoggiare la gamba in terra, non riesco a fare nulla e te l'ho detto che non ce la faccio. Purtroppo tra piede, allora, da una parte c'è il piede che si è gonfiato, c'è un dito che è tutto viola, dall'altra parte sono così, capito? Infatti, a quel punto ti conviene tentartela andare in pensione anticipata, fantastico. Tanto è inutile stare lì a soffrire, a tirare, almeno ti puoi curare un po' meglio. Quando lavori ovviamente c'è tanto stress e anche le cure fino a un certo punto, capito? Ma infatti ma qui stai 3 giorni in piedi, capito? In mezzo all'acqua, io la palafita che c'è non ci posso stare, ma nella la pescheria c'è l'acqua, c'è sempre il mio l'acqua, capito? È un casino, vabbè, già troveremo adesso, ho chiamato lo sindacato, mi ha chiesto i documenti, tutto quanto, faranno tutto loro perché sono stato interpellato anche dalla ditta, vediamo un pochettino che cosa ne esce fuori, se mi conviene accetto, se no. Certo è un po' penalizzante rispetto a una pensione normale, ma diciamo sta male, no? che puoi reggere più di tanto, anche perché probabilmente dopo lavori, col lavoro che fai, non hai neanche alternative, ecco, cioè non cosa vuoi fare? Il cassiere, non lo so, ma insomma è sempre dura, capito? Sempre in piedi. Sì, puoi farlo. No, ma non cambiate tutti i tipi di lavoro, anche perché il medico del lavoro si decide a dire e in abile al lavoro, capito? Si gira attorno, sollevi invece che 30-15 kg, tutte queste cose, poi ti capita la forma in formaggio, la commessa dice ma la sorribi la tavola del formaggio, ti cosa fai, ma la sorribi? La sorribi lo stesso, anche se ne pesa 40. E di lì poi dai medici al lavoro è da fare tutto un discorso, ti capita quello in gamba, ma ti capita anche il sonto, perché il problema è che nel passato ci sono tanti tanti furbacchioni, capito? E questi poi, come in tutte le cose, quando ci sono i furbi di mezzo che fanno i donfi, e poi la gente non si fida più, perché c'è anche da dire che se li fai passare magari poi ti denunciano, oppure vedi ciechi che leggono il giornale, che guidano la macchina e cose del genere. Dico, la gente aria lì ha danneggiato anche la gente che veramente sta male, che sta tirando la carretta con sofferenza, come stai facendo tu. Quindi io penso che ci vorrebbero i documenti medici innanzitutto regolari, fatti tutti dagli ospedali, da vari specialisti, non da uno solo, e che dicano tutti la scacola col medico. A quel punto il medico, diciamo, del lavoro dovrebbe prendere le conseguenze giuste, perché non spostare a lavoro così con rischio, con tutti i rischi connessi, perché poi ci sono anche i rischi di sicurezza, che ti fai male, e comunque il datore di lavoro è sempre responsabile, capito? Insomma, è così, per i furbi ci piangono sempre le persone oneste, non c'è nulla da fare. Sì, sì, capo, la gente l'hanno data la pensione, poi non è cerca, non c'è un capo, basta che quello ci gente, così, capito? Pazienza, adesso vediamo un po' come si può aspettare la situazione, ma io non ci rientro, solo per detto che ho finito quasi la malattia e che ho pochi giorni di decidere cosa fare. Adesso ho parlato con la sindacalista che stanno facendo la domanda in pensione, vediamo un po' cosa non ne riesce più. Sono per stare, non per stare, cioè è inutile girarci intorno. Poi, sai, magari fatti quell'anno, così arrampicato su una parete liscia, con il rischio di peggiorare la situazione, non va bene, la salute innanzitutto, purtroppo. Legati anche a quello, e ne ho visto di gente che ha dovuto mollare, perché anche se le piaceva, poi il paradosso che era anche gente che non faceva il lavoro così pesante come il tuo, però sa benissimo che ci sono certe malattie a prescindere dal lavoro e sono veramente micidiali. Tanto è vero che hanno tirato un po', ma poi non ce l'hanno fatta, sono finite, diciamo, il capitolo. Avanti. Ehi, sono a casa, dai. Non ti preoccupare, ciao, apri. Ciao anche all'amico. Comunque, tornando a cose un po' più futili, già che questi scorsi, poi mamma mia, poi di Pasqua. Contrariamente a quello che pensavo, la cosa di, insomma, stavamo parlando di antenne, la Gemmate comunque ho visto che la sua, diciamo, ha mantenuto le sue promesse. Ecco. La ricezione è splendida, assolutamente notevole, la larghezza di banda è altrettanto notevole, ma in più anche la resistenza, guarda qua c'è sempre il vento, è una cosa che oramai non sono più, guarda, è un incubo. Però l'avvero sta ballando anche adesso, molto meno di ieri, meno male, ma comunque sta reggendo. Quindi posso dire che è un'ottima antenna. Ma costa tanto, costa troppo, perché costa quasi 200 euro. Guarda, io l'avevo presa e costava molto meno di 200. Non so se era sulle 140, adesso non ricordo. Però devi considerare anche che è fatta di un ottimo alluminio, di tutte quelle cose lì, insomma. Se c'è la durata e la robustezza che sta dimostrando, insomma, cioè, ci sono direttive che costano molto più care, ecco. Magari dopo un paio di mesi di questi trattamenti di metodologici, tra l'altro per spezzata. Ma lei che ha fatto? Non è fatta in vetrovecina? Oh, lo sai che mi hai messo il dubbio, pensandoci bene. Sono una cazzata. Sì, credo di sì. Cosa che me ne ho dimenticato, guarda, però sono giustificato dall'età, oramai sono un po' rincoglionito, però credo di sì, non mi ricordo neanche come l'ho montata, se era in due, oh, sì, in due per forza, perché è troppo lunga per essere tutta in tre, avevano mandata in due cose, credo, e già che sì, lo sto guardando, la finestra, mi sembra in due, giusto? Questo non lo so perché non l'ho mai avuta, però so che in vetrovesina perché l'aveva comprata, come si chiama, Salvatore con i cappuccini e gli ha dato problemi al codice rotta mi pare. Beh, probabilmente non è colpa di un'antenna, però questa è, ripeto, l'originale fatta dalla chi era la Sigma, credo, come anche non lo ricordo, però c'era i certificati, tutto, però regge tranquilla, c'è una splendida ricezione, stazionario è sempre a posto, e qua è la prova del 9, qua mi potrei mettere a collaudarle le antenne. Sono soddisfatto sia di quella sia di un'altra verticale che sarà per HF, che è in un altro costruita da un radioamatore che c'è la fabbrica, ed è in alluminio avio, però quella, anche se c'è vento, si piega, però va messa a terra, capito, a livello del suolo. Con la lampa c'è in alta, c'è la sola, i lenigoetti, giorno e notte, mattina e sera. E quindi, ma soprattutto umido, ci abbiamo degli sbalzi termici che ogni tanto mi tocca pulire anche i fari all'interno, i faretti per le luci, perché fa addirittura la condensa, quindi ti puoi immaginare cosa succede dentro un'antenna in vetrovesina se non è fatta bene. Io a proposito del Salvatore mi pare che costava sulle 200 euro, tu dove l'hai presa? Su internet? Sì, sempre da fuori. Forse da SM Technology, se non ricordo male. Quella lì sarà la prossima antenna che metterò sicuramente. Ho un'antenna similare, senza radiali, leggera. La Grandmaster com'è, pesante? No, no, rispetto alla Mantova che c'era, che è durata 30 anni, è una piuma, non c'è paragone. La cosa più bella che ha, lo sai qual è, perlomeno qua dove sono io, è che finalmente le connacchie si attaccano al tram. Ho visto che se la prendono adesso sono un po' di VHF e c'hanno i radialini piccoli, ma quella la lasciano in pace. Prima a Matova 1 la facciamo bella. A me me ne hanno buttato due i radiali di connacchie, capito? Ed erano ancorati con quella retta per grumi, quella grossa, quella che si usa per pescare i grumi. Praticamente era quasi impossibile romperla. Beh, hanno rotto i radiali, la retta è rimasta attaccata al radiale, ma il radiale l'hanno spezzato. Perché in realtà poi il segreto anche di queste antenne così lunghe è quello di farle un po' ballare, perché se le metti rigide, cioè le metti tiranti in modo che non si muova, si beccano il vento con tutta la loro potenza. Da me invece oscilla sia l'antenna sia anche il palo che è leggermente ammortizzato. Ad esempio quelli VHF non hanno neanche tiranti, ma sono alti, c'è roba di 18 metri il palo, quindi non è uno scherzo. Sono riusciti anche quello a piegare, no, tubo d'albine per intenderci. Infatti adesso li dovrò togliere, abbassare, perché non ne posso più. Oramai non è che da solo puoi fare questi lavori con i pali da ponteggio. Stavo cercando dell'alluminio, ma è difficile da trovare, guarda, non si trova niente oramai. Vai, lo sei dove? Dal marcito a fiaccarci un intero lì. vai e trovi quanti ne vuoi, e quei pali che magari hanno un po' di smussata pure, roba del genere, che non escono perfetti perfetti, però non c'hanno nulla, non escono perfetti nel senso che magari sono smussati male, eccetera eccetera, ne trovi quanti ne vuoi. Come, ma d'alluminio già, abbassa un pochettino però, perché mi stai risuonando lato parlante, è troppo forte, forse hai toccato, ma hai alzato, aspettato prima, sei troppo forte. E sono d'alluminio, sì. Scappa, no, sono quelli tubi d'acqua, sono l'alluminio non lo so se ne ha, ma qua c'è che anche l'alluminio ce li abbia, ma quelli d'alluminio ti vengono a costare un bene, te lo sto già dicendo, perché l'alluminio viene pagato bene. Lo so, ma qua non è da mettere tubi d'acqua, qua stiamo parlando di roba un bel lunga, il tubo d'acqua, non so se c'è presente i tubi da ponteggio d'Almine, è riuscito a incicciarlo, figurati, a parte che è esageratamente pesante anche quello, con questi diametri non riesci neanche a sollevarlo una persona. Quando già farà, io ti saluto che deve venire gente a casa, non sia che tu mi becchi così senza essere pronto, dai, che sono un po' disabilito, mi preparo un po'. Dai, ci sentiamo, Gianfranco, mi ha fatto piacere sentirti, se senti a tenere una riserva, dici che sono a casa, ok? Ciao. Ok, già, buona serata, alle prossime, e ancora auguroni, buona Pasqua e a seguire, ciao. Ciao ciao, buona serata. Ciao, grazie per tanto, grazie per il consiglio, ciao ciao.